Dimmi per quale ragione un vento deve scuotere quest'aria greve. Per quale sentiero deve quel vento correre per arrivare da te un giorno? Dimmi da quale regione un vento torna a scuotere quest'aria greve. Quale pensiero riuscirà a confondere se passerà da te un giorno? Lascia che prenda infine la tua mano sottile, che ti guardi negli occhi, che ti canti una nuova canzone. Lascia che arancio colpisca al tramonto la pelle sul tuo viso e accenda nell'iride un colore. Lasciami fondere il cielo, la terra, i tuoi occhi, la luna, il nome tuo ed il mare. L'erba bagnata, i capelli, la voce, il respiro e il modo gentile che hai di guardare. E dimmi per quale ragione il vento scuote l'aria greve. Per quale sentiero il vento corre per arrivare da te?